Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Buon venerdì sera dalla redazione Dan Rita D'Ambrosio, ancora insieme per raccontarvi questa giornata, una giornata ricca di notizie, a partire dal giubileo straordinario che dall'8 dicembre è stato annunciato oggi da Papa Francesco. Sarà il 65esimo della storia e pensate, l'annuncio non è arrivato in un giorno qualsiasi, esattamente due anni fa Bergoglio venne eletto Papa. L'annuncio del giubileo è una buona notizia, dopo l'Expo l'Italia saprà fare la sua parte anche in questa occasione, ha commentato il Premier Renzi, che questa mattina ha visitato il cantiere Expo a Milano. E poi c'è un'ultima ora che arriva dal Veneto, dove Tosi domani a Verona annuncerà la sua candidatura alla guida della regione. Juncker sulla Grecia, soluzione vicina detto, Tsipras ottimista, invece Varoufakis è a Cernobbio. E poi parleremo oggi anche di Formula 1, perché in Australia si riapre con la Mercedes, ma la Ferrari c'è. Allora, una buona serata a tutti, ringrazio come sempre Cristian Goldoni e Mariella Roberto in redazione, Carmelo Lauricella in regia, un bacio alla nostra Roberta Giordano che tornerà con voi la prossima settimana. E noi partiamo dall'annuncio del giubileo, l'avete sentito, è una buona notizia che il governo italiano accoglie con i migliori auspici, ha commentato il Premier Matteo Renzi. Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. L'annuncio arriva durante l'omelia della celebrazione penitenziale a San Pietro. A 2 anni esatti della sua elezione, Papa Francesco annuncia così la sua svolta, un anno santo a partire dall'8 dicembre di quest'anno fino al 20 novembre del 2016. È un cammino che inizia con una conversione spirituale e dobbiamo andare questo cammino. Gli anni santi celebrati nella storia della Chiesa fino ad oggi sono 26. L'ultimo fu il giubileo del 2000, indetto da Giovanni Paolo II. Roma è da subito pronta ad affrontare questo evento, ha risposto subito il sindaco Marino. Ma il Papa, sempre in occasione del secondo anniversario della sua nomina, in un'intervista alla TV messicana, rilascia una dichiarazione sorprendente e fa una previsione sul suo pontificato. Ho la sensazione che sarà breve, 4-5 anni o forse 2-3. È come un piccolo, vago sentimento, precisa Bergoglio, facendo intendere che potrebbe sbagliarsi, ma intanto nella stessa intervista ammette che quella di Benedetto XVI fu una scelta coraggiosa. I Papa emeriti dovrebbero diventare un'istituzione e non un'eccezione. Dunque nulla escluso. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La capitale sotto i riflettori, dunque, i riflettori che per il momento sono tutti puntati su Milano per l'Expo. Mancano 49 giorni al via. Oggi a fare il punto il Premier e diverse autorità. Silenziosi, il casco in testa, la pettorina a fluo. Gli operai del cantiere Expo ascoltano, qualcuno sorride. Il Premier Renzi dal palco di un teatro all'aperto all'interno di Expo parla guardando sempre nella loro direzione. Siete voi che state realizzando questo sogno, un sogno di bellezza, aggiunge. La sensazione, guardando dal perimetro concesso alla stampa, è che davvero si stia andando veloci, contro ogni previsione. Alcuni padiglioni sono pronti. Un signore mi spiega che in quello austriaco c'è dentro un bosco. È un signore che viene dal Marocco, non vuole parlare al microfono perché è più bravo a costruire che parlare, dice. E la cosa più sorprendente è questa moltitudine di facce, di lavoratori che arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo. È a loro che si rivolge Matteo Renzi. Ci dicevano tutti, non ce la farete, lascia stare, mollala. Abbiamo visto che invece l'Expo ci sarà un grande successo e ci consentirà di presentare l'Italia al mondo. Questo è con buona pace di tutti i gufi e quelli che sperano che l'Italia non ce la faccia. L'Italia ce la farà. Si corre contro il tempo lavorando senza tregua, 7 giorni su 7, 20 ore al giorno. Sono uomini e donne che ci hanno creduto davvero e se ci credono loro è ora che cominciamo a crederci anche noi, dice il sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Per arrivare a un cantiere che sia veramente finito il 1° maggio, e sono tutti ottimisti. Se sono ottimisti i lavoratori, devono essere ottimisti coloro che hanno un ruolo istituzionale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Convinti che ce la si farà sono anche gli industriali. L'Expo sarà un gran trampolino, sottolinea il presidente Giorgio Squinzi, che ci consentirà di presentare un'Italia di grandi tradizioni ma anche in profonda evoluzione. Oggi il paese sta cambiando, si sta realizzando un percorso di riforme che era impensabile solo 15 15 mesi fa, sul quale dobbiamo insistere con determinazione e con rapidità. È indispensabile per Confindustria tornare a parlare direttamente al paese, proporre modelli culturali, perché impresa è cultura, ha aggiunto Squinzi, che stava presentando Fab Food, la fabbrica del gusto italiano, una mostra dedicata alla produzione alimentare industriale sostenibile, che sarà in esposizione permanente nel Padiglione Italia. L'Expo è già stata una grande occasione per le imprese lombarde, lo sarà anche per gli altri, sottolinea il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca. Noi abbiamo il 50% delle imprese iscritte a Assolombarda che hanno lavorato per Expo, per dare un'idea. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica, con la novità che avete sentito nei nostri titoli, Flavio Tosi farà domattina alle 11.30 l'annuncio ufficiale della sua candidatura per le regionali in Veneto. Tosi lo farà dal palco della manifestazione in fiera, in cui ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi. Lega e 5 Stelle intanto non attenuano il tono delle loro critiche al governo. La data delle regionali è stata appena fissata dal Consiglio dei Ministri, ma già prende corpo la campagna elettorale. Nella Lega Matteo Salvini conferma la candidatura di Luca Zaia in Veneto, dichiara il capitolo Tosi chiuso. L'attenzione del segretario del Carroccio però si concentra anche sulle altre regioni come Liguria e Toscana, e qui lancia l'anatema contro il premier Matteo Renzi. 31 maggio c'è il ponte, 2 giugno, una data che dimostra che questi hanno paura. Si parla tanto di Veneto, giustamente, dove noi puntiamo a vincere, però mettendo un occhio in Liguria, se vinciamo in una qualunque delle regioni super rosse, c'è qualcuno che a Palazzo Chigi un quarto d'ora dopo dovrebbe, penso, dimettersi. Salvini guarda anche alla battaglia interna al centrodestra. Silvio Berlusconi non è più leader, sarebbe un ritorno al passato, e attacca anche Beppe Grillo. Dal Movimento 5 Stelle arriva invece la sferzata del deputato Alessandro Di Battista contro la Germania e l'Unione Europea. Il nemico oggi è il potere centrale, è una sorta proprio di nazismo centrale nord europeo che ci sta distruggendo, cioè stanno proprio creando, anche con il Jobs Act, una sorta di generazione Walmart, produrranno sempre più schiavi. Parole che suscitano le reazioni indignate delle altre forze politiche. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A 3 giorni dalla soluzione definitiva nel processo Ruby c'è un altro filone della vicenda che riguarda Berlusconi, il cosiddetto Ruby Ter, sulla presunta corruzione delle testimoni, ancora in fase di indagini a Milano. Nuovi elementi emergono dagli atti. Quando i rischi giudiziari, oltre alle polemiche, erano diventati troppo forti, Silvio Berlusconi si è congedato con una lettera e una buona uscita, ma fino ad allora ha pagato 2.150.000 euro a 14 ragazze ospiti delle notti di Arcore, Ruby esclusa. Arrivano a questa cifra i PM di Milano che indagano sulla presunta corruzione dei testimoni e arrivano alla conclusione che nessuna delle oggettine tra il 2010 e il 2014 ha avuto un reddito non riconducibile in modo diretto e indiretto all'ex premier, scrivono i PM. Se la media era di 2.500 euro al mese, ha messo a verbale il ragionier Spinelli, l'uomo che amministra i conti del Cavaliere, le analisi bancarie dicono che le gemelle De Vivo avrebbero ricevuto 100.000 euro e Barbara Fagioli 180.000, per non parlare della villa di lusso in cui vive Barbara Guerra o degli appartamenti Vista Duomo. Nella somma dei 2 milioni non è calcolata però Ruby, che in Messico ha comprato un ristorante e un paio di palazzine. Ma quando le sentenze si avvicinavano, e soprattutto quando era iniziato quest'ultimo filone, il Ruby Ter, Berlusconi ha fatto avere alle ragazze 25.000 euro di buona uscita, perché ora non posso più aiutarvi o altrimenti, ha scritto, sono guai. Ora anche questa lettera è un indizio per la procura di come sia stato comprato il silenzio sulle notti di Arcore. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Grecia, vertice Juncker-Tsipras oggi a Bruxelles, dal pomeriggio invece il ministro greco Varoufakis è a Cernobbio. Penso che la BCE farà tutto il possibile per preservare l'indivisibilità dell'euro, così il ministro dell'economia greco Varoufakis a margine del workshop Ambrosetti a Cernobbio. Varoufakis ha aggiunto: Atene non sta cercando aiuto all'esterno, fa parte dell'Unione Europea che è una e indivisibile. A Bruxelles è stato il giorno di Alexis Tsipras, ha tornato a incontrare il presidente della Commissione Juncker, il quale ha rassicurato: siamo giunti ai momenti decisivi, quello che escludiamo è un default greco. Per Juncker una soluzione nelle prossime settimane è possibile. Dello stesso tenore Tsipras, se c'è la volontà politica tutto è possibile, ha ribadito. Atene ha dato intanto ordine di ripagare una tranche da 348 milioni del prestito ricevuto dal Fondo Monetario. La Grecia andrà sui mercati mercoledì con un collocamento di titoli a 3 mesi. L'obiettivo è raccogliere 1 miliardo. A tenere banco intanto è ancora la polemica con la Germania, inaspritasi con il corollario dello scontro personale Schäuble e Varoufakis. Con le minacce non si arriva a risultati nell'eurozona, ha dichiarato il portavoce del governo tedesco rispondendo a una domanda sulle minacce del ministro della difesa greco Kamenos di riempire l'Europa e la Germania di profughi. Da parte sua il ministro delle finanze Schäuble non esclude più l'ipotesi di un'uscita della Grecia dall'euro. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca italiana con una storia straziante, quella di una bimba di 6 anni che per circa 3 giorni, pensate, ha vegliato il cadavere della madre di 36, Barbara, morta in un appartamento del rione Libertà di Bari, apparentemente per cause naturali. L'allarme è stato lanciato dal padre della vittima, che vive a Pescara e non sentiva la figlia da 3 giorni. Penalizzazione di altri 2 punti da scontare nella stagione in corso per il Parma Calcio, mentre oggi si è tenuta al centro sportivo di Collecchio l'assemblea degli azionisti. Presenti Gianpietro Manenti, presidente del club e rappresentante degli eventi sportivi, proprietaria del 90% della società, e Roberto Giuli, numero 1 di Energy T Group e socio con il rimanente 10%. La riunione si è chiusa con un nulla di fatto e con l'emergere di una situazione patrimoniale nuovamente peggiorata, come ha spiegato Roberto Giuli alla nostra Lidia Zancaner. Manenti continua a dire che lui ha un piano, che vorrà presentarlo il 19 in tribunale e che se il tribunale piano valido e non farà fallire la società, non dichiarerà il fallimento del Parma, allora lui è posto, perché da subito ha detto che ha una banca tra i principali gruppi bancari mondiali che è disposta a mettere una linea di credito di 50 milioni. Voi però non avete sentito nessun piano, nessuna strategia finora? No, noi l'unica cosa che abbiamo accertato è che oggi ci è stata presentata in assemblea una situazione patrimoniale economica sia al 31/12/2014, per cui una semestrale, e sia una situazione infraannuale al 17 febbraio, dove da al 31/12 si evince una perdita, ci dicono i sindaci, certificata anche dalla società di revisione, di 50 milioni, e al 17 febbraio del 2015 si evince una perdita di 56 milioni e 600 mila euro in fase di certificazione. E poi c'è la Formula 1, ne parleremo diffusamente nel corso di Effetto Notte, perché si comincia a prendere via domenica all'alba per l'Italia il campionato del mondo di automobilismo. Domani sempre all'alba, con inizio alle 6, le prove ufficiali. Ne parleremo, come detto, diffusamente. Adesso ci aggiorniamo su strade e autostrade. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le principali notizie di oggi, a partire dal giubileo straordinario annunciato oggi da Papa Francesco. A partire dall'8 dicembre sarà il 65esimo della storia, l'ultimo era stato quello di Papa Wojtyła. L'annuncio è del giubileo una buona notizia, dopo l'Expo l'Italia saprà fare la sua parte, ha detto il premier Matteo Renzi, che questa mattina ha visitato il cantiere Expo a Milano. Movimento 5 Stelle di Battista attacca la Germania, schiavi del Marco, via dal nord Europa nazista, parole forti quelle pronunciate, ne parleremo tra poco. Parleremo tra pochissimo anche della Grecia, secondo Juncker la soluzione è vicina, è ottimista anche Tsipras. Varoufakis invece, il ministro delle finanze, è a Cernobbio e ha detto che la BCE deve essere più flessibile. Proprio da qui partiamo, dalla Grecia, per la precisione da Cernobbio, una giornata dominata dalla visita di Varoufakis, del ministro delle finanze. Ci colleghiamo in diretta con Cernobbio, dove c'è Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Vittorio, allora, è arrivato un po' prima del previsto Varoufakis, personaggio sicuramente più importante della giornata di oggi, alle 17 questa conferenza stampa, e ha ribadito insomma la linea che già conosciamo, no? Sì, esattamente. Varoufakis è riuscito a mettere in ombra Nouriel Roubini, l'economista che aveva previsto la crisi dei 2008, e Jim O'Neill, l'ex capo economista di Goldman Sachs, annunciando appunto che la BCE dovrebbe essere più flessibile, dovrebbe quindi fare come fece nel 2012 con il governo Tsipras, un governo conservatore, che diede appunto più flessibilità, concedendo appunto più margini di manovra a quel governo. Quindi Varoufakis ha chiesto appunto in nome dell'indipendenza della BCE lo stesso trattamento, un trattamento che in sostanza vorrebbe dire dare più un limite maggiore di 15 miliardi come è adesso all'emissione di titoli a breve. Questo darebbe maggior capacità di finanziamento alla Grecia, che in questo momento è in grave difficoltà, perché non sta ricevendo le rate. Certo. Vittorio, Varoufakis ci sarà anche domani. Intanto questa mattina abbiamo sentito Juncker, ha incontrato Tsipras. Insomma, c'è ottimismo. Pare che la soluzione possa essere vicina o no? Sì, certo, anche se bisogna ricordare che questa mattina da Vienna una trasmissione della radio pubblica austriaca. I tedeschi restano scettici fortemente. Esattamente, Schäuble ha detto attenzione, se non verranno rispettati i patti come noi abbiamo previsto non ci saranno nemmeno un euro, e quindi è rimasto ancora, diciamo, il falco sempre pronto a vigilare sul rispetto delle regole, perché Schäuble crede che se ci fossero delle concessioni eccessive alla Grecia potrebbe essere messa in discussione la costruzione dell'euro, i mercati potrebbero mettere quindi in discussione il fatto che le regole non sono più così ferme e solide, e questo preoccupa molto Berlino. Naturalmente tutto questo c'è un certo ottimismo, perché Varoufakis ha detto anche un'altra cosa, ha detto che potrebbe rinviare le promesse che avevano fatto in campagna elettorale, cioè che alcune delle promesse, che naturalmente sono quelle più costose, quelle che prevedevano una riduzione dell'austerità, potrebbero essere dilazionate nel periodo della legislatura, quindi nei prossimi 4 anni. Questa è una grossa apertura del governo Tsipras, che fa naturalmente ai partner europei. Vittorio, prima di salutarti, alleggeriamo un po' anche visto l'orario. Avrai visto anche tu le foto di Varoufakis con moglie su questa bellissima terrazza con vista su Atene. Ci sono state un po' di polemiche perché qualcuno ha detto ma come, la Grecia è ridotta come è ridotta e Varoufakis si fa fotografare in quella che forse è casa sua, non lo so, nei corridoi a Cernobbio si parlava anche di questo? Sì, assolutamente, quando è arrivato abbiamo fatto appunto la domanda al ministro appena appunto giunto, perché era assolutamente imprevisto e in anticipo sui tempi, di rispondere alle affermazioni di Schäuble, e lui ha detto in questo momento, in questo luogo così bello, non ho nessuna voglia di rispondere a queste cose, e infatti poi con la moglie ha appunto approfittato per fare questa lunga promenade sul lago di Como e appunto vedere queste bellezze a Villa Dente, che naturalmente è uno dei posti più belli d'Italia. Ma il problema è che si sono scatenate anche i social network, che hanno messo in discussione appunto diciamo così il ministro anti-austerity, che invece appunto in un momento così drammatico si concedeva una pausa di tutto respiro appunto in una zona considerata una delle più esclusive del pianeta. Insomma, la libertà della rete. Grazie al nostro Vittorio Darold da Cernobbio. Noi restiamo in qualche modo a parlare di questo, a parlare di Grecia, a parlare di euro e a parlare del ruolo della Germania. Lo facciamo e lo ringraziamo con il deputato 5 Stelle, membro del direttorio 5 Stelle, Carlo Sibilia. Buonasera. Salve, buonasera a tutti, buonasera a lei, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui stasera con noi. Commentiamo, onorevole Sibilia, le parole innanzitutto di Alessandro Di Battista, che qualche polemica... Chissà come mai me l'aspettavo. Chissà, perché insomma qualche polemica l'hanno suscitata, l'euro è una zavorra di cui l'Italia deve liberarsi al più presto per non finire schiava del nazismo, della Germania e della BCE. Le parole prima le abbiamo sentite in un servizio, lei è molto vicino a Di Battista, conferma queste parole, questo allarme? Ma noi siamo deputati del Movimento 5 Stelle e non è un caso che stiamo promuovendo una raccolta firme per uscire fuori dall'euro. Queste parole sono semplicemente da connotare all'interno di quello che sta accadendo nel nostro paese. La verità è che noi stiamo subendo un austerity che nessuno ha scelto, non ce la meritiamo, tutto quello che ci dicono ci può accadere se usciamo dall'euro già sta accadendo all'interno della moneta unica, semplicemente perché la moneta unica ormai è un fatto, è da più parti acclarato che è un fallimento. Semplicemente bisogna trovare in questo momento una via d'uscita quanto più ragionata e meglio possibile. Noi abbiamo già attivato un percorso esattamente facendo questa raccolta firme. Noi già in tutti i fine settimana abbiamo i banchetti diffusi in tutta Italia per raccogliere firme per una proposta di legge. Ma Sibilia, tutte queste polemiche, no? Rispetto alle vostre affermazioni, in un momento in cui si dibatte tanto la Grecia esce dall'euro e questo comporterà un problema enorme, non vi fanno deviare dal percorso, no? Dritti per la vostra strada. Ma guardi, noi è un percorso che ci abbiamo pensato prima di farlo, non è che il percorso nasce oggi, non è che siamo presi dalla disperazione del momento, allora facciamo una scelta che deriva dalla disperazione del momento, è una scelta ragionata. Sappiamo benissimo quello che è accaduto in questi 10 anni di permanenza nell'euro, è stata distrutta la domanda interna per stessa ammissione del EIFU. Governo Monti, disastroso governo Monti, abbiamo perso il 25% delle nostre attività produttive, il nostro debito pubblico è ai livelli più elevati da record battuti giorno dopo giorno, già in 30 anni abbiamo pagato 3.100 miliardi di interessi sul debito e ancora ne abbiamo 2.150 rotti da pagare, non è un sistema sostenibile, chiaramente dobbiamo trovare un'alternativa e bisogna assolutamente cambiare questo modo di fare. Io voglio semplicemente anche dire che tutte queste misure che poi arrivano dall'Europa, tipo il quantitative easing adesso che va di moda, però dei benefici li ha portati, no? Ha comprato con i soldi della Banca Centrale Europea, ha comprato anche i titoli a rendimento negativo della Germania, mentre non ha comprato quelli della Grecia. A me non sembra che stia dando i benefici. Però la Grecia, l'abbiamo detto poco fa, sta per trovare un accordo, quindi in Europa oggi Tsipras ha visto Juncker. Cioè, vediamo quale sia la. Voi siete oltre Tsipras, cioè Tsipras ci parla con Juncker, voi no. No, noi parliamo con tutti. Il problema è un europeista, si è definito. Conferma questo. No, io mi definisco una persona che sa esattamente dove vive. L'Italia quando esce dall'Unione Monetaria non esce dall'Europa, perché l'Europa è un posto dove noi ci sentiamo di appartenere anche geograficamente, anche in tutti gli altri modi. In questa mattina noi abbiamo fatto un incontro per capire proprio se esistono nuovi modelli e uno di questi modelli potrebbe essere quello che abbiamo proposto, ad esempio l'Unione del Mediterraneo. Io le dicevo prima, il quantitative easing, io mi chiedo una cosa. Abbiamo detto 60 miliardi al mese fino al 2016, forse anche 17, non si sa, Draghi ha scelto questa misura, innanzitutto già che lo scelga Draghi, che è il governatore della Banca Centrale Europea, mi fa sempre storcere un po' il naso, perché voglio capire da quale scelta democratica si parla, cioè se c'è un burocrate, un tecnocrate che è messo lì e decide di non dare il mercato di euro, allora bisogna capire che queste cose poi naturalmente ricadono nella vita di tutti i giorni dei cittadini. Io Mario Draghi non l'ho mai votato, ad esempio, però più di tutti mi chiedo, ma da dove arrivano questi 60 miliardi di euro al mese? A noi ci stanno facendo le pulci per capire dove arriviamo a prendere. Sibilia, la posizione è chiara, io però la posso interrompere e spostare un attimo sul terreno interno, perché io le voglio fare sentire la voce di Salvini, che oggi ha parlato anche dei 5 Stelle, e allora volevo fargliela commentare, ascoltiamolo un attimo. Grillo è alla canna del gas. Per rispetto, la parola cancro non dovrebbe essere utilizzata, visto che tocca la sensibilità e la sfortuna di qualche milione di italiani. È un poverino in evidente difficoltà, forse essendo a conoscenza anche del fatto che diversi parlamentari dei 5 Stelle sono interessati a cominciare un percorso con la Lega, e quindi lasciamo i paroloni e gli insulti a Grillo e andiamo avanti per la nostra strada. Sibilia, ma è vero che ci sono dei 5 Stelle che vogliono andare con la Lega? Ma io credo che ormai tutti vogliono fare shopping nella parte politica più sana del paese, ormai è così, non c'è nessuna, ma neanche voce lontana di una cosa del genere. Quindi vaneggiamenti di Salvini. Ma è chiaro, nel senso che ormai hanno bisogno di parlare del Movimento 5 Stelle per far credere ai loro elettori, oppure far credere alle persone in generale, qualcuno che ancora crede a queste facce e faccioni: ma Salvini è entrato in politica quando io avevo 4 anni, sono 26 anni che non fa niente, un assenteista puro, io non so ancora come si faccia a dare credito a queste persone. Poi, per l'amor di Dio, lei fa sentire tutte le dichiarazioni che vuole. Io le devo far sentire tutte. No, fa benissimo, fa benissimo. E soprattutto le devo far commentare da lei, perché non se ci fossero stati dei 5 Stelle... commentare. Lo so, commentare, perché a me farebbe piacere, perché lei le trova totalmente destituite da ogni fondamento. No, io vorrei che qualcuno mi tirasse fuori qualche idea politica per risolvere i problemi del paese. Io voglio parlarle del reddito di cittadinanza, voglio parlarle del fatto che il Movimento 5 Stelle si taglia gli stipendi del 50% e li dà un fondo per le piccole e medie imprese, e adesso già ci sono tantissimi progetti che stanno arrivando e possono dare la garanzia di 25 fino a 35 mila euro per i giovani che vogliono aprire un'impresa, ma anche le persone più in là con l'età che hanno difficoltà ad avere l'accesso al credito proprio a causa delle banche che non erogano credito nonostante il quantitative easing famoso di Draghi. Ecco, e lei lo ha detto e noi la ringraziamo perché è un'iniziativa decisamente lodevole. Ringraziamo l'onorevole Sibilia per essere stato con noi. Ci fermiamo e poi torniamo ad approfondire un altro argomento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 21 e 34 minuti, ancora una buona serata. I titoli di oggi: Papa Francesco annuncia un giubileo straordinario, durerà fino a novembre 2016, e alla TV messicana rivela: il mio pontificato penso sarà breve. Expo Renzi visita il cantiere con ottimismo, ce la faremo anche se correndo. Il giubileo una buona notizia, l'Italia farà la sua parte. Grecia, Tsipras si dice ottimista dopo gli incontri in Europa, Varoufakis a Cernobbio, la BCE preserverà l'indivisibilità dell'euro. E poi la Formula 1: in Australia si riapre con la Mercedes, ma la Ferrari c'è. E adesso noi approfondiamo la notizia del giorno, inutile negarlo, che arriva dal Vaticano. Lo avete sentito anche nel nostro servizio all'inizio di Effetto Notte: il giubileo straordinario annunciato oggi da Papa Francesco. Commentiamo questa notizia, i 2 anni di pontificato di Papa Francesco. La ringraziamo e la salutiamo con Giovanna Chirri, vaticanista dell'agenzia di stampa ANSA. Ne avete sentito parlare di Giovanna, che ringrazio, che è in collegamento con noi, perché lo ricorderete, Giovanna, scusami ma lo devo ricordare, tu sei stata la prima a dare la notizia delle dimissioni storiche di Ratzinger per la tua conoscenza del latino, lo ricordiamo. Non buonasera. So quanto ti faccia piacere, buonasera. No, mi fa piacere, per carità. Però l'hai sentito tante volte, dici, sono... Vabbè, diciamo che l'affetto fa sempre piacere, via. Certo. Senti, Giovanna, allora io ti farei sentire la voce dell'annuncio del Papa di oggi, di Papa Francesco, così la commentiamo insieme. Ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale e dobbiamo andare questo cammino. Per questo ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Le parole di Papa Francesco. Giovanna Chirri, tu te l'aspettavi questo annuncio? No, è arrivato assolutamente a sorpresa? Sì, stamattina c'era qualche boato sul fatto che ci poteva essere qualcosa, però era tutto molto vago, insomma, quindi vabbè, si è saputo a un certo punto nel pomeriggio. Io più che altro insomma mi aspettavo per quest'anno un'accentuazione del tema della misericordia, l'ho casualmente scritto anche ieri, però non perché così, perché mettendo insieme una serie di dati mi sembrava che potesse essere uno sviluppo per quest'anno, però certo l'anno santo onestamente non ero in grado di prevederlo. Mi sembra importante il fatto che il Papa lo farà cominciare il giorno in cui ricorrono i 50 anni della chiusura del Concilio, quindi mi sembra proprio un'indicazione, diciamo, che vuole farne un momento di ripartenza per la Chiesa in quest'ottica del Vangelo della Misericordia. Ecco, questo sarà un avvenimento ovviamente importantissimo. L'ultimo fu quello di Papa Wojtyła, Giovanna? Sì, nel 2000, il grande giubileo del 2000, penso ce lo ricordiamo tutti anche per i problemi pratici che ci portò. No, insomma, fu un evento, in genere il giubileo è un evento che coinvolge un po' anche i non credenti in fondo, insomma, coinvolge a livello mondiale. Forse questa volta Papa Francesco, puntando sulla misericordia, che poi è l'attributo di Dio, non solo del Dio cristiano, ma del Dio degli ebrei e del Dio dei musulmani, cioè il Dio delle religioni. Del libro, puntando sulla misericordia, può forse pensare anche di non solo una conversione nella Chiesa, ma anche una possibilità di fare un percorso comune con le altre fedi, nel senso sempre della misericordia e per il bene comune. Un percorso che il Papa ha già iniziato nei suoi rapporti appunto con le altre chiese. Sarà una prova importante per Roma ancora una volta, insomma? Sì, Roma come città dovrà, diciamo, riscoprire, ricostruire la sua vocazione di città della pace, e nello stesso tempo dovrà anche organizzarsi a livello gestionale, amministrativo, del traffico, insomma, penso che sarà una prova, mi auguro. Un'opportunità, che... ma come sempre anche una prova, insomma. Sì. Giovanna, è arrivata tra l'altro non in un giorno casuale questo annuncio, perché 2 anni fa, tra l'altro, insomma, l'ho condotto io con la nostra vaticanista Katia Caramelli, lo speciale, e Bergoglio venne eletto. Ascoltiamo, sì, ascoltiamo il file sulle prime parole che pronunciò Papa Bergoglio 2 anni fa. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Furono delle parole da subito molto semplici, molto belle, che diedero subito l'idea di questi 2 anni di pontificato? Sì, fu un'impressione grossissima, devo dire. Già era stato lo shock quasi positivo, ma lo shock all'annuncio del nome, che fosse Bergoglio. Poi dopo, quando è passato un po' di tempo, si è affacciato alla Loggia delle Benedizioni e si è presentato al popolo, è stata un'impressione fortissima, insomma, nel senso, non solo per il linguaggio, per le parole, per il fatto che non aveva le insegne pontificie, era vestito solo di bianco, che si, poi perché anche per i gesti si è fatto, ha chiesto subito che il popolo pregasse per lui e lo benedisse, quindi una serie di cose abbastanza di primissimo impatto, insomma, fu un'emozione molto grande, devo dire, già l'annuncio del nome. E poi questi 2 anni che tu hai percorso ovviamente nelle tue agenzie, nei tuoi tech di agenzia sull'ANSA, sono stati caratterizzati da molti avvenimenti. Quali secondo te sono stati i più significativi di questi 2 anni? Sono stati tanti, mi rendo conto, ma quelli che secondo te lo sono? Guarda, secondo me è impossibile veramente sintetizzare. Ti dico, le cose proprio che mi hanno impressionato, che mi vengono in mente così, sono state, vabbè, quest'anno che concludiamo è il sinodo, cioè l'aver messo in moto nella Chiesa un processo sinodale che è ancora in corso, continua, aver voluto sentire il parere di tutti, questo mi ha colpito moltissimo. Poi nel primo anno, beh, sono rimasta letteralmente molto molto colpita come significato dal viaggio che ho fatto a Lampedusa, cioè è stato lì che ho cominciato a capire veramente cosa potesse voler dire un pontificato di questo genere, perché mi sono resa conto che ha preso proprio il tema degli immigrati, che non, di cui si occupavano soltanto le élite, e l'ha messo al centro della Chiesa, insomma, era Lampedusa, quindi un pezzo d'Italia, ma era un pezzo d'Europa, era il tema di questa gente che veniva posto all'attenzione del mondo. Poi mi colpì tantissimo la veglia di preghiera contro la guerra in Siria, che funzionò, nel senso che ebbe successo. E poi, vabbè, lo sguardo all'Asia che ha, mi impressiona tantissimo. Io ho avuto la fortuna di seguirlo sia in Corea che in Sri Lanka e Filippine, devo dire, a parte ho imparato tantissimo, ma insomma mi sono resa conto che questa prospettiva dell'Asia è molto ricca di cose, ecco, molto ricca di futuro per tutti. Giovanna, tu hai parlato, hai fatto riferimento a Lampedusa, dell'accoglienza, della grande accoglienza di Lampedusa. Il Papa ha parlato anche in questa intervista, sì, alla TV messicana, della quale oggi si è parlato, sì, tanto, perché, sì, il Papa avrebbe detto: il mio pontificato penso sarà breve, 4-5 anni, poi ha detto 2 o 3, non lo so, insomma, qualcuno ci ha visto addirittura una possibilità di dimissioni anche nel suo caso. No, no, guarda, secondo... allora io ti premetto, l'intervista è bellissima e lunghissima, Valentina è stata bravissima, io ho letto con attenzione solo due o tre cose perché poi è arrivata questa storia dell'anno santo, quindi non ho potuto leggere, mi riprometto di leggerla per intero domani, però il punto questo qui l'ho letto tutto. Lui fa questa previsione che il suo pontificato sarà breve, ma non è... secondo me è una previsione sul fatto dell'età che ha e del futuro che si aspetta, perché poi lui dice forse posso sbagliarmi. Però dice chiaramente, fa capire chiaramente, anzi gli viene anche chiesto se si vuole dimettere, che non ha intenzione di farlo, pur apprezzando moltissimo la scelta di Papa Benedetto e anzi ribadendo che comunque è una scelta che ha aperto una porta, che ha indicato una nuova via, però non credo che per lui, per il suo pontificato, in questo momento pensi alle dimissioni, cioè mi sembra che proprio non sia nella sua testa. È un'intervista questo. Molto bella, come dicevi, sì. Anche se non hai avuto sì. Modo di approfondirla, perché ne viene fuori questo aspetto umano meraviglioso di Papa Francesco che abbiamo apprezzato in questi due anni, un uomo che vorrebbe, che non ama viaggiare, che però è costretto a farlo, che ama stare con gli altri, che ha fatto la scelta di vivere dove vive perché voleva stare con gli altri, cioè emerge ancora una volta questa figura meravigliosa, molto aperta agli altri. Sì, sicuramente, vabbè, mi ha diciamo fatto tenerezza, se vuoi, questa cosa che ha detto, che ogni tanto gli farebbe piacere andare in pizzeria senza essere riconosciuto, perché mi sembra che effettivamente ci sia una voglia di normalità e tutti sappiamo che la vita da Papa non è assolutamente divertente, perché sei esposto continuamente al mondo, tutti stanno lì a vedere se stai bene, se stai male, se c'hai mal di pancia, quindi insomma è una voglia di normalità che lui ha, come il fatto che si porta la valigia da solo perché lo ha sempre fatto. Secondo me mi sembra che abbia ridetto delle cose, nel senso abbia ribadito per esempio la storia che a lui non piace affatto viaggiare e ora però è costretto a farlo perché fa il Papa, e però l'ha spiegata ancora una volta come una sua nevrosi, cioè dice una nevrosi, io amerei stare per conto mio, non andare in giro, mi tocca, dice, come non avevo nessuna intenzione di restare a Roma quando sono venuto per il conclave, così ora mi tocca anche viaggiare, lo dice con molta spontaneità, insomma, ma anche con molta sincerità, secondo me sono tutte cose che sente quando le racconta, insomma le racconta anche suscitando una simpatia così abbastanza. Infatti è per questo che lo amiamo particolarmente Papa Francesco, sì, grazie. Proprio simpatico, prego. Infatti, grazie alla nostra grazie Giovanna Chirri, vaticanista dell'agenzia di stampa ANSA, per essere stata con noi. Noi torniamo ad aggiornarci su Strade e Autostrade. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie principali di oggi, il Papa, ne abbiamo parlato proprio adesso, ha annunciato oggi il giubileo straordinario dedicato alla misericordia. Ho la sensazione, ha aggiunto in un'intervista a una TV messicana, che il mio pontificato sarà breve. L'annuncio del giubileo è una buona notizia, dopo l'Expo l'Italia saprà fare la sua parte anche in questa occasione, ha detto il Premier Matteo Renzi, che questa mattina ha visitato il cantiere Expo a Milano. E poi ci sono le novità che arrivano dal Veneto, con Tosi che domani mattina a Verona annuncerà la sua candidatura alla presidenza della regione Veneto. E poi ci sono le notizie che riguardano la Grecia, forse una soluzione è vicina, Varoufakis è a Cernobbio e si è rivolto ancora alla BCE. Processo Rubiter, 2 milioni da Berlusconi alle ragazze di Arcore, 2 milioni in 4 anni. E poi la Formula 1 che tra breve approfondiremo, in Australia si riapre con la Mercedes, ma le Ferrari non sono andate male. Europa 24 notte. Appuntamento con l'Europa, siamo il primo continente al mondo per film prodotti, ma abbiamo una quota molto bassa di circolazione di film europei negli altri paesi. L'affermazione di Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. Per questo è necessario sostenere il cinema europeo ed aiutarlo ad abbattere le frontiere. Lo fa ad esempio il premio Lux, che ogni anno permette a 3 film di viaggiare in tutte le capitali europee, sottolineandoli in 24 lingue. Sentiamo Silvia Costa al microfono di Marta Cagnola. Esiste da molti anni un programma molto importante che si chiama Media, che abbiamo rilanciato con Europa Creativa per i prossimi 7 anni, che comprende sia la parte cultura, creatività e media. Io, come relatore di Europa Creativa, ho inserito la buona pratica del Lux anche nelle possibili forme di sostegno alla distribuzione dei film europei, proprio nel programma Media, che ha stanziato 1.400.000.000 di euro per i 7 anni ed è stato ormai lanciato nel 2014. Secondo, noi abbiamo un grande problema di circolazione dei film prodotti in un paese europeo e negli altri paesi europei, quindi le basi dell'industria cinematografica europea sono da un lato piuttosto forti, perché noi siamo come continente il primo in questo momento al mondo come numero di film prodotti, 1.200 film l'anno scorso, ma siamo con una quota veramente molto bassa, intorno al 10% di circolazione di film europei negli altri paesi. Quindi noi stiamo lavorando anche per rafforzare, per esempio, le licenze multiterritoriali per del diritto d'autore, per poter far circolare di più. Abbiamo previsto il sostegno anche alle piattaforme digitali, quindi a modi nuovi di offrire e di far fruire il cinema. Dobbiamo far crescere anche quello che noi abbiamo chiamato la linea nuova che è stata inaugurata in media, che è il cosiddetto audience development, cioè sviluppo del pubblico, che significa non solo in termini numerici anche, ma di cultura cinematografica, quindi molta importanza avranno il sostegno ai festival, anche festival cosiddetti minori, ma che fanno conoscere i nuovi autori. Sosteniamo la mobilità e dei professionisti, per cui imparino anche a misurarsi con un mercato internazionale. Penso anche agli stage, le opportunità che ci sono anche di tirocini o di esperienze professionali in altri paesi. Sostenere le coproduzioni anche con le televisioni, anche se naturalmente vengono sostenuti i produttori indipendenti, ma soprattutto abbiamo deciso che Media sostiene soprattutto il pre e post produzione e poi molto sostegno alla distribuzione, alle sale. Noi abbiamo una linea molto interessante, che è quella di sostenere permanentemente una rete che si chiama Europa Cinema. Sono circa 2.200, vado un po' a memoria, sale cinematografiche che in tutti i paesi, compreso il nostro, promuovono una quota significativa di cinematografia non nazionale. E poi c'è un grande aiuto anche per quanto riguarda la vendita verso paesi terzi, accordi bilaterali. E poi la cosa interessante è che Media non si limita solo ai paesi dei 28 paesi europei, ma ha un perimetro più largo, penso a tutti i paesi del vicinato, ai paesi candidati, e sulla base di accordi bilaterali con risorse aggiuntive, quindi si possono ottenere altre risorse, accordi anche con paesi terzi. Di film europei, premio Lux e interventi del Parlamento europeo sull'industria cinematografica parleremo domattina nel reportage in onda dopo il giornale radio delle 7. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso approfondiamo il tema sportivo che vi abbiamo anticipato nei nostri titoli, e cioè la Formula 1. In Australia si riparte con i campionati del mondo. Sky tornerà a raccontarvi tutto il mondiale di Formula 1 in diretta e in alta definizione per il terzo anno consecutivo, e noi abbiamo in collegamento per parlare di Formula 1 e delle chance delle nostre Ferrari con il giornalista di Sky Antonio Boselli. Ciao Antonio. Ciao, buonasera a tutti. Allora Antonio, questa Ferrari dell'era Marchionne, insomma, abbiamo visto solo le prove libere a Melbourne, però non sembra andar male? No, esatto, è una coincidenza da un certo punto di vista, perché comunque ci sono tanti lavori che vengono fatti dietro allo sviluppo di una monoposto, e finché non vai in pista non ti rendi conto esattamente delle prestazioni della macchina. Siamo passati da una stagione disastrosa per la 2014, con un cambio appunto, presente Marchionne che ha preso il posto di Montezemolo, anche il team principal, la De Domenicali, Mattiacci, che è arrivato, Maurizio arriva bene, e evidentemente ha fatto un buon lavoro su una macchina che era stata fatta nella gestione precedente, hanno corretto qualche difetto proprio strutturale del monoposto, anche il motore sembra funzionare, insomma abbiamo visto due Ferrari in terza e quarta posizione con Vettel e Raikkonen che potrebbero anche lottare per un podio. E diciamo che 3-4 mesi fa questa è una cosa inaspettata. Le Mercedes però sono imprendibili. Eh sì, diciamo che questo è un po' il leitmotiv della passata stagione e di questa. Francia, perché c'è stata una rivoluzione l'anno scorso, nel 2014, con l'introduzione di questi motori che adesso in realtà vengono chiamati power unit, con una parte motore classico, diciamo, motore a scoppio, e poi una parte ibrida che riutilizza l'energia trasformandola poi in carico. Antonio, io non ti sento benissimo, però se ti puoi spostare dal punto nel quale ti trovi. Mi senti meglio? Adesso ti sento okay. Meglio. No, dicevo semplicemente che la Mercedes ha saputo sfruttare un cambio regolamentare e a mettersi comunque con un grande vantaggio, che è riuscita ad avere la passata stagione a confermarlo e in questa stagione ancora una volta a sfruttarlo, insomma. Quindi anche oggi abbiamo visto nelle due sessioni Rosberg e Hamilton veramente avere un passo notevole. Questa è sicuramente una cosa che un po' ci fa prevedere che questo Gran Premio sia comunque all'insegna delle Mercedes, ma come dicevo prima hanno fatto un grande passo in avanti le Ferrari, anche le Williams, quindi aspettiamoci comunque una lotta quantomeno per il podio. L'appuntamento è domattina alle 6 per le prove ufficiali. Esatto, c'è un nostro pre-qualifica, vi porteremo, vi racconteremo un po' anche delle informazioni, anche di colore dell'Australia. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Bernie Eccleston, che ci racconterà delle cose molto interessanti, e poi alle 7 scatta la qualifica vera e propria, e secondo me vedremo tante sorprese tra quelle Ferrari. Antonio, prima di salutarti io però devo chiederti una cosa, perché mentre i colleghi piloti scalpitano a Melbourne, c'è Fernando Alonso che si prepara in Spagna. Adesso ha pubblicato su Twitter un'immagine che lo ritrae impegnato in palestra. Quella è una vicenda ancora molto molto strana, molto misteriosa ancora, no? Sì, guarda, io credo che avendo la possibilità di parlare anche con chi la Formula 1 l'ha vissuta negli ultimi decenni, ti parlo per esempio di Bernie Eccleston o anche dello stesso Flavio Briatore, è un caso abbastanza interessante e curioso, perché c'è un'amnesia di fondo, cioè Fernando Alonso non si ricorda esattamente cosa sia successo, quindi fondamentalmente nessuno ha ancora capito, o forse si è capito, ma la verità la sanno veramente in pochi. E quindi bisogna ancora far chiarezza su quello che è successo. Su questa vicenda. Diciamo che sì, c'è la sensazione che ci sia stato un problema elettrico. Questo è un po', diciamo, il sentore comune. Però deve essere fatta una indagine da parte della federazione. In tutto questo, Fernando Alonso, che ha subito un trauma non indifferente, adesso sta cercando di recuperare al massimo la condizione di esserci in Malesia fra due settimane. Speriamo. Grazie ad Antonio Boselli di Sky per essere stato con noi. Con lui concludiamo questo appuntamento di venerdì. Restate con noi, tra poco gli aggiornamenti del GR.